Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato 28 di novembre, sono le 10:08 primi, mancano 12 secondi, qui siamo in diretta dagli studi di Radio 24 di Milano, una Milano finalmente fredda, io sono felice, minoranza assoluta rispetto a chi naturalmente rimpiange il caldo, ma siamo qui la compagnia dei conti della Belva che quindi vi saluta. Carlo Alberto Carnevale Maffè, Mario Seminerio. Renato Cifarelli ci raggiungerà più tardi, avremo più tardi anche il collegamento che ormai diventa abituale con la nostra compara Rita Fatiguso dalla Cina, che ci racconterà un pezzo inedito della Cina anche oggi, e in questo inizio di fine settimana noi vi proponiamo un po' di abrasioni per iniziare bene il fine settimana, anche perché è un fine settimana in cui inizia per voi tutti il problema dei regali di Natale, eh? Regali di Natale, del resto questa ripresa così travolgente vi spingerà sicuramente a consumare ancora di più. E magari se avete 18 anni ancora un pochino di più, ma aspettate perché dovete prima incassare. E allora vado come sempre a ricordarvi di che cosa ci occupiamo in questa trasmissione, ricordandovi che se volete poi approfondire trovate anche i documenti, se andate sul portale di Radio 24, programmi, conti della Belva, troverete indicati tutti gli ospiti, i temi e i documenti per riflettere della nostra trasmissione di oggi. Di che cosa parliamo? L'inizio della trasmissione, come sempre, un punto sulla crisi, sugli aggiornamenti, fiducia ai massimi, come sapete. Giudizi un pochino più articolati nel tempo sulla legge di stabilità da parte europea, attesa sui mercati per il 3 dicembre che si avvicina, quindi con Mario Seminerio il nostro punto settimanale su come vanno le cifre della crisi in Italia e fuori, visto che l'Italia si illude di essere sconnessa dal mondo, ma non è così. Dopodiché abbiamo un bel blocco che dedichiamo al bonus ai diciottenni annunciati dal governo, 500 euro, e lo inquadriamo in un problema generale, perché questo è ormai il governo dei bonus, il bonus 80 euro, l'estensione del bonus 80 euro ad altri soggetti in questa seconda legge di stabilità, il bonus ai diciottenni, l'aumento delle detrazioni fiscali che dovevano essere disboscate, razionalizzate con l'opera del professor Roberto Perotti e invece sono aumentate, e quindi sono 15 miliardi ulteriori di minor gettito in questo anno. Perché? Perché il fisco discrezionale piace alla politica, però noi siamo aperti alle vostre opinioni, magari voi ci chiamate all'800 24 00 24 e oltre a sentire i nostri ospiti voi ci direte che 500 euro 18 anni sono meglio di niente, quindi fateci sapere come la pensate. Poi un altro blocco del tempo della trasmissione dedicato al tema posto domenica scorsa con la risoluzione, il termine tecnico è questo, delle quattro banche di cui ci eravamo già occupati rispetto alle altre 10 che poi sono commissariate dalla Banca Italia, cioè stiamo parlando della Cassa di Risparmio di Chieti, di Ferrara, Banca Marche, della Popolare di Arezzo e Etruria. Sapete più o meno, immagino, cosa è successo, cioè l'applicazione, sia pur in limine mortis, del bail-in che comincia a gennaio, ma con l'interpretazione un po' italiana, dopo avervi raccontato per tantissimo tempo che naturalmente non ce n'era bisogno, che nessuno ci avrebbe rimesso un euro. E allora noi ci occupiamo di questo, daremo anche un orecchio prestando voce a chi ci ha rimesso i soldi e ci occuperemo di capire insieme a voi che cosa però ci aspetta adesso, innanzitutto per le altre banche commissariate di Banca Italia, poi visto che abbiamo drenato il più delle risorse per molti anni necessarie a questi interventi, e tante tante tante altre cose rispetto a questo problema che scoppia nell'incredibilità generale di molti che hanno creduto a quello che veniva loro raccontato, e cioè che avevamo il sistema bancario più sano del mondo. E adesso, come sempre, prima della prima pausa, una concentrazione su che cosa ci ha colpito di più in questa settimana, oltre a questi temi. Caro Alberto, che cosa ti ha irritato o divertito in questa settimana? Che girano più consigli di amministrazione in FS che treni alla stazione di Voghera ormai. Nel senso che qua c'è tutto un turbinio, passaggi a livello che suonano, croci di Sant'Andrea dove vengono ovviamente gli infissi e crocifissi amministratori, delegati e presidenti. No, il progetto di privatizzazione dell'FS è un gran pastrocchio, caro Oscar, caro Mario. Mi sa che dobbiamo dedicarci un po' d'attenzione con i nostri trenini, che ne dite? Però ecco, con questo voglio dire, dopo l'esperienza secondo me negativa di Poste, ricordo che sono usciti ieri i conti, il governo ha incassato parecchio meno, circa 20% meno di quello che pensava, le banche in realtà non hanno esercitato tutta la loro opzione di green shoes, quindi vuol dire che un esempio di privatizzazione fatta maluccio, e non parliamo di Fincantieri, e non parliamo di Fincantieri, no? Meno male che c'è un po' di guerra che Fincantieri si riprende. Però invece voglio dire una cosa invece utile, interessante, perché è vero che mi ha fatto incavolare una roba che questa qui di FS, ma ieri sono, come dire, ho avuto un brivido di piacere quando il nostro ministro Poletti è uscito dicendo un'ora sola ti vorrei, nel senso che non possiamo più pagare soltanto, ma parlava alla Camusso, esattamente, accontentandosi evidentemente di quel che passa il convento sindacale, e ha detto una cosa secondo me bellissima, interessante, anche se tutta da studiare, cioè che da sinistra cade il mito dell'ora di lavoro come metrica unica universale del rapporto fra impresa e lavoratore. No, questo è interessante. Però i sindacati lo hanno accusato al contrario, certo, assolutamente, di dire tu vuoi abolire i minimi di lavoro contrattuale, perché ci vuoi far lavorare al cottimo. Cottimo, certamente, esatto. Anche perché Barbagallo, quell'altro Barbagallo, quello dei sindacati, ha detto questo è l'altro Barbagallo, noto meglio solo a chi si occupa delle cose bancarie, sta in Banca d'Italia. Certo, si presidiano i due grandi sindacati, quello del lavoro e quello del capitale. No, quel Barbagallo del lavoro ha detto che questo è liberismo sfrenato, che Poletti non si deve permettere di discutere. Invece secondo me è un'occasione interessante, quindi me lo segno, perché è pasto da belve questo, se posso. Sì, però io devo fare un'altra domanda, perché il Poletti oramai, voglio dire, produce 2, 3, 4 battute da giornale a settimana. Voi che cosa avete pensato dell'altra battuta di Poletti che ha ruggito sui titoli, quella relativa alle università? Ma io penso che sia un non senso, perché a parte che bisognerebbe arrivare a laurearsi in fretta e bene, no? Diciamo, per riuscire a fare tutto, però questo mi ricorda che in questo paese abbiamo una realtà che è abbastanza drammatica, e cioè che il valore dell'investimento nella laurea è inferiore in termini di capitalizzazione all'investimento in un diploma. E questo è un indicatore che dovrebbe tenere sveglia la gente di notte, perché indica intanto che è tutto il sistema paese che è profondamente disfunzionale, e indica che praticamente in un orizzonte di lungo periodo questo paese è spacciato, perché bisogna chiamare le cose con il suo nome. È vero. Perché se la gente, adesso io non per citarmi, però visto che ci sono altri illustri accademici che dicono che l'avevano detto, allora lo dirò anch'io, nel mio libro La cura letale avevo proprio prefigurato questo, cioè in questo processo di vietnamizzazione italiana, quindi fatto di basso aumento di produttività di lungo termine e diciamo una repubblica dei net, quindi della gente che non fa nulla, nella migliore delle ipotesi sta sui social e guarda i talk politici, c'è anche questo, cioè l'investimento da parte delle famiglie in istruzione superiore, segnatamente universitaria, è antieconomico e non è conveniente. Allora bisognerebbe cercare di non usare le battute, no? Del tipo laureatevi presto che così potete correre, potete correre in un call center a rispondere al telefono o a perseguitare il prossimo. Magari cerchiamo di fare una riflessione, perché ricordiamo che in un'era geologica precedente, di questo era vessillifero all'allora ministro Sacconi, si parlava molto dell'apprendistato, no? L'apprendistato visto come momento di raccordo tra l'esperienza scolastica e l'esperienza del mondo del lavoro. Peccato che, come quasi tutte le cose che vengono create in questo paese, poi c'era un secondo pensiero, cioè abbattiamo il costo del lavoro e rendiamo i cinquantenni degli apprendisti, perché questo era il problema, il tutto un enorme problema di sistema paese. Per cui quello che ha detto Poletti Stamattina leggevo un editoriale di, online di Veronica De Romanis, che diceva, faceva il confronto tra Merkel e Poletti, no? La Merkel sarà che si è laureata, specializzata e quant'altro, e Poletti ha il diploma, ma forse Poletti si è laureato nella grande università delle COP, però diciamo, cerchiamo di guardare dov'è il punto di contatto tra la battuta da bar e una progettualità per il paese. Fammi dare un numero, l'OCSE l'altro giorno ha annunciato i dati del tasso di impiego dei laureati italiani, sono scesi dal 72,8% al 61,9% in 10 anni, in 15 anni circa. Siamo al più basso livello di tutta Europa e siamo a 20 punti in meno rispetto alla Germania e alla Francia. Esatto. Per farvi capire. Questo vuol dire che effettivamente studiare, e fammi dire Mario, senza conflitti di interessi, nel posto sbagliato anche. Vabbè, assolutamente. Grazie. Purtroppo oggi non paga, e questo è un tema secondo me di offerta, ma anche di domanda, se vogliamo dire. Probabilmente dobbiamo discutere di entrambi i lati del mercato del lavoro. Voi sapete che in realtà non c'è l'obbligo per le università pubbliche di fare una raccolta dati comparabile sugli indici di occupabilità un anno, due, tre anni di chi consegue diversi diplomi. C'è poi chi tenta di raccogliere questi dati e pubblicarli, tipo Alma Laurea, così eccetera eccetera, però quello che dovrebbe essere l'elementare indicazione di orientamento per un portale pubblico, cioè pubblicarli per tutti i corsi e per tutte le università, esatto. Questa roba in Italia non c'è. Anzi, non so se avete letto la polemica in questi giorni, articoli dell'amico Thomas Manfredi dell'OCSE hanno provocato una rivolta, ma come ti permetti di parlare della nostra bellissima università? Molti naturalmente accademici poi insorgono per il fatto che dicono che quei numeretti non sono la vera metrica comparabile, perché l'efficienza e l'eccellenza dell'insegnamento non si misura con questo orrendo criterio aziendale. Ho capito, detto questo. Allora, torniamo tra un minuto. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta... della belva. Eccoci qui, tornati in diretta con i compagni dei Conti della Belva, Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Mario Seminerio. Eccoci qua. E allora, stavamo parlando un pochino anche di queste battute del ministro Poletti, quelle sull'orario di lavoro da superare, perché lui immagino che pensasse al risultato. Alcuni dicono no, da superare perché significa che ci vuoi far lavorare senza limiti nel contratto e pagare per ore. Credo che lui pensasse al risultato. E poi quella sull'università, insomma, che è arrivata come una specie di roba, vabbè, non perdete tempo, però siamo il paese che ha la più bassa percentuale di occupati laureati, persino in Lombardia, pensate, dove siamo tornati agli occupati del 2007, cosa è venuto dal 2008 al 2014 nel mercato del lavoro, che i laureati hanno perso sui non laureati. Persino in Lombardia, cioè la parte più avanzata del mercato del lavoro italiano, abbiamo anche, devo dirlo, tra gli imprenditori dei paesi OCSE la più bassa percentuale di chi ha titoli terziari e post-terziari. Quindi post-terziari praticamente nessuno è imprenditore italiano. Anche questo vuol dire, perché significa che poi nelle imprese familiari i manager, quelli che vengono magari con la miglior preparazione del meglio delle università, perché come abbiamo detto non sono affatto tutte uguali le università, beh, quelli poi non le assumono perché o ne hanno paura o ne diffidano, per così dire. E anche questo è un problema della crescita italiana rispetto alla capacità di essere formati bene. Sì, fammi dire che il 26% dei laureati alla Bocconi va a lavorare all'estero, il che è un grande successo per la mia università, grande insuccesso per il sistema educativo italiano, perché stiamo esportando, pagando noi, brain power e intellectual capital. Allora, io sono in attesa che la regia mi dica se c'è il primo ospite, perché qui non lo vedo naturalmente collegato, ma non c'è ancora, lo stiamo chiamando. E di che cosa parliamo in questo primo blocco? Parliamo della Repubblica dei Bonus. Perché parliamo della Repubblica dei Bonus? Perché ovviamente si aggiunge, e di questo discuteremo, il bonus per i diciottenni, 500 euro. Ma il problema, oltre al giudizio da dare su questo intervento chiesto da Renzi, che avverrà, come ovvio, e oltre al fatto che ci si possa grattare la testa sul fatto che viene annunciato come secondo decreto di spesa in due settimane, non conosciamo il testo del primo per 1,2 miliardi, questi sono altri 2 miliardi abbondanti fuori dalla legge di stabilità, però insomma viene annunciato come la strategia nazionale contro il terrorismo, perché si dice noi facciamo 1 miliardo per sicurezza e difesa, ma 1 miliardo per la cultura, e in questo c'è anche questo bonus agli diciottenni di 500 euro. Al di là di questo, quello che ci sembra a noi è che oramai c'è una linea di continuità identitaria su questa questione fiscale, perché i bonus 80 euro, polemiche su chi lo incassava pagava o meno, l'estensione del bonus 80 euro a soggetti che l'anno scorso non ne hanno beneficiato, la promessa da una parte di disboscare le detrazioni e deduzioni fiscali, ricordate le famose tax expenditures, e invece questa promessa non viene onorata, perché il Presidente del Consiglio ci spiega, eh no, se io avessi adottato le proposte di Roberto Perotti, che poi se n'è andato, in realtà per effetto del riordino delle detrazioni e deduzioni la pressione fiscale sarebbe aumentata. Sì, ma si era sempre detto che bisognava farlo per dare un ordine a quelle centinaia di misure che in realtà sono spesso delle tutele ingiustificate a questo, a quella nicchia della produzione, a questa, a quella figura professionale, e invece non lo si è fatto. Anzi, abbiamo appreso questa settimana che il totale delle detrazioni e deduzioni con questo governo è ulteriormente salito e i mancati miliardi di gettito sono passati da 160 miliardi a 175 miliardi. Quindi se mettete tutte insieme queste tessere, l'idea è quella di un fisco discrezionale, come se la politica piacesse di più a chi do questo e a chi non lo do, a chi concedo questa esenzione rispetto ad altri, perché così decido io. Cioè, non riforme generali, universalistiche, di taglio per tutti, magari fatte in equilibrio con tagli di spesa, bensì la scelta di una specie di cherry picking. Il politico decide quale ciliegia cogliere e naturalmente noi che siamo cattivelli pensiamo che lo faccia perché identifica dei possibili vantaggi, per così dire. Allora, io ricordo a tutti gli ascoltatori, e poi passo al nostro primo ospite, che quando nel 2005 Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio, mandò una letterina a tutte le famiglie che avevano avuto un bimbo nato nel 2005 dandogli 1.000 euro, ecco, l'opposizione insorse, parlò esplicitamente di pessima demagogia elettorale. Queste sono le tre parole più ricorrenti dei leader dell'opposizione di sinistra rispetto a quella misura, tranne che l'anno dopo, poi cambiato il segno del governo nazionale, si mandarono 175 euro ai sedicenni, alle famiglie che erano dei sedicenni, per comprare un PC e per un accesso a internet, e a firmare la lettera erano i due ministri Melandri e Nicolais. Oggi siamo a Renzi con i 500 euro per i diciottenni. Come vedete c'è una linea di continuità di destra e sinistra, però quello che mi interessa capire è il giudizio su questa misura, A, B, però perché la politica continua a preferire il fisco discrezionale. Allora, è con noi per pochi minuti, e lo ringrazio perché aveva da fare stamattina, Marco Causi, deputato del PD alla Commissione Finanze, uno esponente del PD che più ne capisce di queste cose e che in questi giorni è impegnato per sé e per il suo partito anche sulla legge di stabilità. Grazie di essere con noi in questa mattinata, onorevole. Buongiorno a voi. Posso chiederle un'opinione sul perché la politica continua a preferire il fisco discrezionale rispetto agli interventi universali e generalisti? Io sono entrato in collegamento adesso, non so se lei si riferisce a qualcosa di specifico. Noi stavamo dicendo i 500 euro ai diciottenni, lasciamoli sullo sfondo, poi ci dirà cosa ne pensa. Però se mettiamo quelli, gli 80 euro in cui si identifica la platea e adesso la si estende a questa quella categoria, il fatto che le deduzioni e detrazioni fiscali dovevano diminuire invece sono aumentate quest'anno e anche il gettito collegato non incassato è passato da 160 a 175, l'impressione è che il fisco discrezionale in cui la politica sceglie sia preferito a quello di impatto generale. Ma guardi, per esempio deduzioni bisognerebbe fare un lavoro molto attento perché alcune sono ormai sorpassate, insomma, no? E però questo lavoro di anno in anno lo affidiamo a gente, però, e poi non si arriva mai al dunque. È evidente anche che l'Unione Europea ci dice qualcosa sul nostro sistema di aliquote IVA. Tuttavia è prevalsa, mi sembra, in questa fase ancora critica dell'economia, la volontà del governo di non dare nessuna sensazione di incremento fiscale. Quindi io sono d'accordo con lei, però diciamo al tempo stesso il governo sta cercando, secondo me legittimamente, giustamente, di mantenere un clima di raffreddamento della tensione sul fisco, che è prodromico anche a un po' più di sviluppo del paese. Un po' di fiducia, e questa è la stessa scelta di Mutasi prima casa, il governo ce l'ha spiegato parecchie volte. D'accordo, allora prendiamo che su deduzione e detrazione si preferisce non razionalizzare perché comunque l'effetto sarebbe quello di più gettito. Vabbè. Ma poi lei lo sa meglio di noi che quando si assumono misure come l'estensione a questa o quella categoria del bonus 80 euro oppure il bonus ai diciottenni, noi, ma immagino anche voi, veniamo invasi da lettere lettere di tutto il resto delle categorie, dei soggetti che dicono: ma per quale ragione, cioè dove sta l'equità di una cosa di questo genere? Le faccio un esempio: noi siamo sommersi da 48 ore, quando è arrivata la notizia del bonus 18 anni, 500 euro, di gli insegnanti a tempo di istituto, che in teoria dovevano essere pagate non più distrettualmente ma dal tesoro, che però il tesoro è in ritardo nell'applicazione di questa riforma, e quindi da settembre non vengono pagati, e siamo oramai a novembre. Ne abbiamo tonnellate, ma le faccio solo un esempio, perché ecco, misure selettive così, la gente mica capisce qual è la ragione equitativa. Ce n'è una, secondo lei? Beh, guardi, l'operazione degli 80 euro fatta l'anno scorso, pur essendo stata molto criticata, in realtà qualche effetto l'ha avuto. Le analisi scientifiche prodotte ormai in questi mesi, a partire da quella di Luigi Guiso, ma anche altre, Banca d'Italia, dimostrano che un effetto su consumi c'è stato. Si sa che fin da allora il governo, cioè, noi avevamo limitato questa cosa degli 80 euro al mese in più solo ai lavoratori dipendenti. Si sa che il governo fin da allora avrebbe voglia di estendere il più possibile la platea. Estenderlo a tutti non è possibile. No, però aveva parlato di pensionati, autonomi, insomma, aveva parlato. Si devono fare dei tentativi razionali, purtroppo non si riuscirà a generalizzarlo ancora, però diciamo, dato che quella misura ha avuto efficacia, ed è sbagliato pensarla come una misura piegamente elettorale, una misura di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di basso e di reddito basso e medio basso, estenderla anche ad altre categorie di lavoratori non dipendenti, secondo me è sensato. Però sono d'accordo con lei che le estensioni vanno scelte con cura e con perimetrazioni che siano anche, come dire, comprensibili sul tema politico. Allora, io la ringrazio perché... Dato che ancora su questo, certo. Giannino, le dico, su questo ancora non abbiamo nessuna carta, perché questo dovrebbe essere, questo annuncio fatto da Renzi, sì, che in sostanza prende 2 miliardi, diciamo, riduce di 2 miliardi la riduzione IRES sulle imprese, sì, e con questi 2 miliardi avvia dei programmi di spesa, periferie, sicurezza e di, diciamo, ulteriori detrazioni fiscali per le famiglie. Questo è un annuncio, ma ancora non abbiamo le carte. Non c'è. Io devo aspettiamo, dire, naturalmente, come dico a tutti i politici che ripetono che la copertura di questi 2 miliardi viene dalla diluzione nel tempo dei tagli all'IRES, che mi dispiace correggervi, ma è obbligato farlo. Il taglio dell'IRES era nella legge di stabilità, nella versione non accessoriata, 2,2%, cioè quella andata in Parlamento, che non prevede la concessione dello 0,2 di deficit aggiuntivo per la clausola immigrati, era comunque prevista nel 2017. Quindi traduco, non mi interrompa, questi 2 miliardi vedremo quando c'è il testo, correttamente, lei ha ragione, come verranno coperti, perché la copertura da diluzione al 2017 del taglio IRES non c'è, perché il taglio IRES avveniva da sempre nel 2017, però vedremo la copertura. Su questo ha ragione lei, quindi nessun processo alle intenzioni, sicuramente poi al tesoro ci penseranno. Io comunque, sì, guarderemo con molta attenzione, esatto, l'emendamento, esatto, del governo, e avremo anche la possibilità di discuterlo con il governo, esatto, del Parlamento. Io la ringrazio. Il governo è anche abbastanza aperto alla discussione del Parlamento. Però io la ringrazio per il fatto che lei non si nasconde dietro un dito. Lei dice, insomma, qui un problema ordinamentale, di logica, nei termini fiscali c'è, come. Ecco, dice, e questo per me, già che venga riconosciuto questo, no, che dici, Carlo Alberto? Che devo, dico al mio onorevole rappresentante della Repubblica, che non deve farsi espropriare del diritto di rappresentare tutta la nazione nella scelta di allocazione fiscale. Non è giusto che il governo decida per il Parlamento sulla distribuzione delle tasse. È profondamente illiberale, perché è un uso della tassazione che viola il principio della rappresentanza. Non fatevi scippare i diritti di rappresentare davanti ai vostri elettori la scelta fiscale, che è patto fondamentale dello Stato. Purtroppo il Parlamento è inginocchiato davanti alle scelte del governo. Questo non va bene, mi dispiace. Ma lo sai che qui c'è anche un problema di tenuta del governo, disciplina dei partiti. La politica è una brutta bestia, caro Alberto, quindi è inutile. Però noi da liberale punto, ricordiamo, certo, i principi fondativi. Una repubblica basata su principi liberali ha una tassazione basata sulla rappresentanza e non sulle scelte discrezionali del governo, che di volta in volta premia le categorie o i gruppi sociali di propria preferenza. Visto, onorevole Causi, noi quando chiamiamo gli ospiti facciamo anche loro la lezione, però vogliamo ascoltare anche la sua di reazione. Se mi permette, io sto da 7 anni in Parlamento, ho ho partecipato molte volte, sì, sia nella legislatura precedente sia in questa, a momenti in cui il Parlamento ha modificato alcune scelte del governo, l'ultima per esempio sull'ultima finanziaria letta, sulla distribuzione di circa 2 miliardi per le imprese, no? Quindi il Parlamento ha molto legiferato in questi ultimi mesi, spero che questo, anche se un po' per addetti ai lavori, però sia importante per lei, su tutti i livelli legislativi, della delega fiscale, l'attuazione della delega, scherziamo, con un'operazione di semplificazione, modifica delle sanzioni, modifica del processo tributario, sistemazione di tanti pezzi del fisco internazionale per sostenere la internazionalizzazione delle imprese, anche sistemazione della fatturazione elettronica. Siamo a un passo, se magari ci prendiamo qualche mese in più, per fare anche una dichiarazione precompilata dell'IVA, non soltanto dell'IRPEF per le persone fisiche. Quindi sulla struttura dell'impianto tributario stiamo molto legiferando, con una, diciamo, sovranità del Parlamento che deriva dal fatto che la delega è una legge che il Parlamento ha voluto. No, ma questo io lo do atto, anche se poi nella stesura dei decreti delegati l'Agenzia delle Entrate continua a regnare un po' troppo, anzi secondo me non dovrebbe proprio averci a che fare con la stesura dei testi legislativi, però lo sappiamo, e non devo dirlo io a lei che lo sa, tra i parlamentari che lo sa, che questo è uno dei problemi più delicati del procedimento legislativo tributario del nostro paese, perché ha a che fare davvero, come diceva Carlo Alberto, con il rispetto delle funzioni di rappresentanza e dell'equilibrio del costituzionale, di cosa vuol dire il Parlamento rispetto al governo e rispetto poi alle burocrazie dello Stato, che non dovrebbero avere niente a che vedere né con A, la stesura dei testi, B, né col fatto di essere titolari del potere di interpretazione assoluto che noi abbiamo delegato, in realtà, a parte la parte giurisprudenziale della magistratura, ma l'abbiamo delegata in prima istanza assolutamente all'Agenzia delle Entrate. Comunque, grazie a Marco Causi. Avremo dopo la pausa un secondo ospite e anche qui torniamo a chiederci, ma insomma, sto bonus ai diciottenni. Tra un minuto. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità, ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ed eccoci tornati in diretta al compagno dei conti della Belva, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale, Oscar Giannino. 10:37 primi, 37 secondi. Abbiamo cominciato con il bonus 500 euro a diciottenni nel quadro di questa politica fiscale che continua a scegliere gli interventi discrezionali, gli 80 euro a tizio, l'anno dopo li estendo a questi, ai poliziotti, ad altri, dopo aver detto per un anno che li dava agli artigiani e ai pensionati. Naturalmente poi non è vero, però adesso arrivano i 500 euro. Quando Berlusconi faceva la stessa cosa, la sinistra lo uccideva di critiche, adesso lo fanno loro, e naturalmente chi dice ma lo fate per voti, ma che, come osate? Io ho tonnellate di lettere in due giorni di ascoltatori che mi dicono che sono un, alcuni mi hanno scritto che morirò senza serenità, visto che sono incapace di giudizi. Uno a cui ho risposto x volte, il tono si è rabbonito, ma sono stato colpito perché ho ricevuto moltissime lettere di questo tipo. Cosa volete che vi dica? Noi critichiamo chiunque governi, a differenza di alcuni di voi che criticano a seconda di chi governa o all'opposizione. Ma in realtà, Mario, tu che pensi di questo bonus? Ma non so se devo usare termini radiofonici, non ne penso benissimo, ecco. Nel senso che mi pare veramente male indirizzato, privo di senso. Adesso non vorrei essere arido come al solito, ma cioè, le coperture dove sono? Ma a parte quello, che poi ci sono stati dei rilanci molto più intelligenti, no? Del tipo dire, 500 euro per ogni diciottenne. Considerate quanti diciottenni ci stanno in una quarta classe di scuola superiore, possiamo sommare l'importo e intervenire sulla struttura. Perché, ragazzi, non so se avete notato, ma la famosa buona scuola, per quanto riguarda l'aspetto delle strutture fisiche, non è che stia raggiungendo risultati clamorosi. Adesso però ci hanno detto che sbloccano nel patto di stabilità interno 3 miliardi e pertanto tutto migliorerà. Può darsi, però il problema è un altro, e soprattutto, scusate se uso questa espressione, è un problema di scarsa serietà, perché se ricordate noi abbiamo inanellato una serie di bestialità assolute nella comunicazione anche nei confronti di Bruxelles, inteso come Commissione Europea, cioè bonus migranti, se ce lo danno, è riuscire ad avere la faccia di andare in giro a dire lo dedichiamo ad anticipare lo sconto IRES. Cioè, già questa è un'autentica follia, è un'autentica follia, cioè un alleggerimento fiscale transitorio per motivi straordinari destinato ad un alleggerimento fiscale permanente e strutturale, ma non solo, addirittura se ricorderete il Tesoro, il MEF, aveva prodotto proprio in maniera estremamente diligente un calcoletto da cui risultava che le spese dell'Italia per i migranti erano esattamente pari a circa 3 miliardi, no? Per cui quadrava proprio al centesimo, tu guarda la coincidenza di questo paese. Adesso c'è stata l'audizione di Padoan, diciamo, al comitato Schengen durante la settimana e ha detto, correggendo la mira, quei soldi della clausola migranti li destineremo alla voce sicurezza. Ma attenzione, allora ci rendiamo conto di cosa vuol dire un atteggiamento così ondivago per quanto riguarda la reputazione del paese? E poi dentro la voce sicurezza il 50%, a parte gli 80 euro agli esponenti delle forze dell'ordine, vabbè, quella sarà pure sicurezza, a me suona un'altra cosa. E l'altra metà della voce sicurezza va alla voce cultura, e bonus, ci saranno 280 milioni di bonus ai diciottenni. Cioè, e soprattutto, come avrete notato, questa posizione del governo ha innescato la rincorsa del tipo ma perché io non posso averlo perché appartengo a questa e quest'altra? Cioè, non c'è niente di sistematico, c'è tutto di estemporaneo, sono quelle che io chiamo le caramelle fiscali. E tra l'altro non ci si rende conto, e poi mi taccio, non ci si rende conto che esiste, deve esistere una copertura per tutto ciò. E l'Italia continua a fare deficit con altro deficit. Però io devo fare la dissenting opinion, e invece io sono d'accordo sul metodo, posso dire, nel merito sono in linea con voi, ma secondo me distribuire carte elettroniche il cui scopo è controllare e indirizzare la spesa sul territorio nazionale su certi elementi dotati per esempio di POS, come metodo vi confesso che già un paio d'anni l'avevo suggerito al MEF, e perché la storia degli 80 euro dal mio punto di vista non andava data in cash, ma andava data andava data con modalità tecnica. Alberto, un conto è avere un'idea generale su come bisogna far evolvere le piattaforme dei pagamenti e i mezzi di pagamento. Sul metodo sono d'accordo, caro Oscar. Okay. Ma altro conto assolutamente è no. Dire, ragazzi, dopo aver ucciso di critiche, secondo me sacrosante, le condividevo quando Berlusconi dava i 1000 euro a chi faceva il bambino quell'anno, adesso gli diamo 500 euro perché compie 18 anni. Però fate spezzare una lancia dicendo che per una volta il governo fa fare un passo indietro, diamo 500.000 diciottenni, un metodo l'opinione, di spesa intelligente. Sentiamo l'opinione di Raffaello Lupi, che sentiamo spesso, un professore di diritto tributario all'Università di Roma e Tor Vergata, su questo sistema, che a noi sembra evidente, dico, al di là del giudizio di diciottenni, 500 euro se vuole ce lo dà o meno, ma di una politica che continua a preferire sempre l'intervento fiscale discrezionale. A te do questo bonus, a te do quest'altro, te lo estendo, te lo prometto per un anno, poi alla fine vedremo se te lo do o meno, e sono i diciottenni, e le detrazioni e deduzioni le dovevamo riordinare, però non le riordiniamo più, anzi le aumentiamo. Perché la politica preferisce questo fisco discrezionale? Intanto grazie a Raffaello Lupi di essere con noi, ma perché c'è questa preferenza? Ma perché noi siamo abituati a pensare a un legislatore che sistema le cose, la legge come se fosse il nuovo feticcio di una società che non ha altri valori. Il legislatore vuole consenso, cioè il legislatore è lo specchio di una società disorientata, non è lui che sistema, lui insegue, cioè il solito che diciamo spesso, lo statista pensa alle generazioni future, il ma politico che? Pensa alle prossime ma elezioni, no, questo è quasi un luogo comune, sì. Ma cerchiamo di spiegarlo meglio, se lo statista non vince le elezioni, ovviamente non può pensare alle prossime generazioni, quindi ci stanno tutti e due, quindi un po' del consenso ci si deve preoccupare, cioè il politico dovrebbe saper comunicare gli snodi reali, le difficoltà di governo della società. Se si riduce a fare marketing vuol dire che la società ha le idee confuse, cioè è questo che mi fa, è che il politico deve saper comunicare, cioè non abbiamo bisogno di studiosi politici. Se un politico non sa comunicare, deve andare a casa, sì, certo. Perché deve tenere unite le piazze, un elemento di coesione, è un feticcio anche lui, è un simbolo, i simboli sono importanti. ma non puoi fare solo simboli, cioè devi comunicare i contenuti, cioè devi avere una squadra che capisce cosa serve, poi vai sul balcone e comunichi. Qui mi pare che manchi la squadra dietro, cioè sul fisco tutte le cose sono estemporanee, cioè sono indirizzate, cioè ci sono delle cose che si potevano fare, che io ho detto, cioè che erano anche comunicabili. Allora qualcuno dice sì, ma questo sarebbe bello, ma non è renziano. Cioè non si capisce come comunicarlo. Quindi Renziano è una categoria della politica, facci capire, Raffaele. No, lui sta dicendo che la critica abituale a Renzi, cioè la mette in comunicazione, è una critica spuntata, perché è una funzione fondamentale perché della politica. Tutta questa. La politica deve comunicare. Esatto. Il problema è che poi ci sono delle cose benissimo comunicabili, che sarebbero in pieno coerenti con la logica anche di questo Presidente del Consiglio, ma c'è un problema di teste che mancano dietro. Io la butto così. Esatto. Padoan si occupa di altro. In realtà non è un ministro né appassionato né che davvero esercita la delega sui tributi. Ecco. Bravo, cioè Padoan è in Europa, ecco. Cioè va a parlare con l'Europa, almeno non è su, cioè, vedere. Allora io sulla questione del vedo che su Padoan inizia a misurare al millimetro le parole. Che dici? Che su Padoan inizia a misurare al millimetro le parole. No, è un concetto, no, voglio dire, tutti sappiamo che l'abolizione del, adesso fra tecnici, che la questione della TASI sulla prima casa, tutti sappiamo che è una manovra elettorale. Esatto. Secondo me lo sapeva pure Padoan. Sì. È buffo che gli è toccato di dire diversamente. Esatto. No, era questo. Sì, esattamente. Sì, no, ma è così. Che ci tocca dire, capito? Posso dire questo e me ne assumo come sempre la responsabilità, perché anche in questo caso indico la fonte. La stampa ha scritto all'indomani dell'annuncio dei 500 euro e del miliardo per la cultura, oltre a quello per la sicurezza, all'indomani un articolo di Alessandro Barbera, nel quale si raccontava che era in corso all'atto dell'annuncio da parte del Presidente del Consiglio una riunione tecnica, ma con il Ministro al MEF, e si parlava di che cosa tentare di mettere in legge di stabilità per il Sud, anche lì prima annunciato, poi non c'è quasi niente, e l'annuncio ha colto tutti di sorpresa ed era evidente a tutti che stavano in riunione che lo stesso Ministro apprendeva la cosa dei diciottenni senza commentare, però con facce che parlava chiaro. È un po' così, funziona un po' così, Raffaello. È così anche perché, cioè, va bene o va male così, anche perché poi la politica in una buona misura è lo specchio del disorientamento. È questo che dicevi prima, sì. Cioè, prima di tutto devi comunicare, poi però devi pure trovare delle cose che abbiano un capo e una coda. Quindi, in altre parole, se poi le deduzioni e le detrazioni non le riordiniamo e aumentano, è perché è la società italiana che chiede incessantemente questo alla politica, e la politica naturalmente per non perdere consensi le asseconda, un po' così, no? Un po' sì, a macchia di leopardo, Oh, ma perché poi... Ho capito, ma allora siamo fottuti però alla fine. Vabbè, io non dico niente. Ho capito. Non rispondo. Non rispondi, vabbè. Quindi come qualche cosa bisogna che le persone pensino. Perdere vulto, sì, Deus, sì, esatto. Allora io ringrazio, e adesso dobbiamo salutare il professor Raffaele Lupi, anche perché ha segnalato una cosa che noi sentiremo appena torniamo in diretta dopo la pausa, e cioè questo corto che è stato pubblicato sul sito di Repubblica questa settimana, dedicato al tema dell'evasione fiscale. Raramente, e io ringrazio Raffaele Lupi perché non l'avrei visto altrimenti, raramente si è visto nella comunicazione italiana un tale concentrato di idiozie razziste, perché noi viene proprio una pillola, c'è un giovane professionista che viene deriso per le tasse che paga, come se non fosse vero che ne paga tante, e che nel corso del corto viene rappresentato come in preda a una mutazione che viene descritta come genetica, e diventa un evasore che ambisce a diventare, testuale, uno di quei ciccioni che mangiano ostie e non pagano le tasse, perché c'è pure il razzismo che gli evasori sono ciccioni, come ovvio, no? Ecco, vuole diventare questa roba qua ed è assecondato da una commercialista truccata fino all'inizio come una, scusatemi, prostituta, e che alla fine lo asseconda in reggicalze. Allora, io una roba simile lo dico stupito, perché a Repubblica non credevo che questo fosse il livello. Se questo è il livello della semplificazione a cui arriviamo, Barbara, auguri a chi crede che questo faccia bene al signor Stato. Tra un minuto. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia, le vesto, le minuti della belva. 10.52 primi 14 secondi, compare dei conti della belva, torno in diretta. Sentiamo un'ascoltatrice su questo tema. Stiamo parlando sempre, bonus 500 euro, diciottenni, sullo schema di una politica fiscale che resta discrezionale invece che con misure coperte da tagli di spesa, ma che abbiano poi un impatto generale universalistico. Allora Maria, Maria che ci chiama da Forlì Cesena, che pensi del bonus ai diciottenni, Maria? Allora, a me sembra più che altro uno spot elettorale, in quanto se l'intento può sembrare giusto, quello di spingere i giovani a leggere libri, perché i soldi vengono dati non così deliberatamente, ma vengono dati... No, verranno vincolati a dei tipi di consumi, come era quello per i 500 euro agli insegnanti. Esatto, cioè all'acquisto di libri. Quindi l'intento pare buono. Alt, perché questo è quello detto, bisogna vedere il testo, perché c'è stato anche un riferimento all'industria culturale cinematografica e potrebbero essere anche andare al cinema. Quindi, però vedremo il testo. Beh, ecco, allora, nel caso fosse limitato all'acquisto di libri o a materiale di uso scolastico, non so cosa possa essere, ad esempio per noi insegnanti possiamo comprare tablet, computer, non so se sia equiparabile il nostro trattamento con quello degli alunni. E comunque fosse finalizzato all'acquisto di libri, chiaramente questi soldi, si sa che i giovani non leggono, e non leggono non tanto perché non hanno i soldi. Cioè, no, sì, usano altri mezzi e non sono proprio presi dalla lettura, questo non c'è dubbio. No, non mi sembra che siano presi dalla lettura, e comunque hanno altri interessi. La lettura diventa una cosa secondaria, di conseguenza se il bonus fosse legato a questo, mi sembra che sia piuttosto inutile. Piuttosto inutile, però ecco, Maria Pia dice, insomma, forte impressione di una mossa un po' elettorale, per così dire, discutibile anche poi negli utilizzi che verranno fatti. Allora, vi volevamo proporvi questa pillola di questo corto che è uscito su Repubblica, a cui accennavamo prima con il professor Raffaello Lupi, dedicato ai temi dell'evasione fiscale e con il titolo Così Luca perse la verginità fiscale. Fammi evadere. Farò finta di non aver sentito. Tu sei la mia commercialista, io ti pago, io decido. Io sono una professionista. Fammi fare un botto di nero. Voglio essere uno di quei ciccioni di merda che vanno a mangiare pesce sul litorale laziale con la loro famiglia e si vantano di frodare Equitalia. Non è legale. Se vuoi possiamo scaricare anche l'abbonamento del cellulare. No! Scaricare una rottura di coglioni. Io voglio proprio evadere, capisci? Non cedere anche tu alla tentazione dell'italiano medio? Oh, sì, parlami. Quella lingua di voi commercialisti che si capisce o non si capisce. Ah, quella lingua shui. Sì, tanto non siamo in Germania. No, non siamo mica in Germania. Nessuno va in galera per reati fiscali in Italia. No, nessuno. Muovi il capitale. Oh sì, muovi il capitale. Sposta dei soldi e rubameli. Sì, sì, oh sì. Sì. Oh, sì. Frodiamolo questo stato. Sì, frodiamo. Fammi evadere. Ah, oh, ti faccio evadere. Sì. Oh, oh, oh sì, ti fammi evadere. Certo, così giovane, tutto in regola. Potevi anche rimanere pulito. Beh, vedi, piccola, la pressione fiscale su noi giovani liberi professionisti che mi ha costretto a crescere in fretta. Ecco, io penso che chi pensa di avere dato un contributo al movimento civile al dibattito sull'evasione fiscale non sa proprio dove sia la questione fiscale di casa. Ma non sta proprio bene, diciamo. Chi ha realizzato dei dialoghi del genere sta proprio bene. Le immagini poi sono molto più spinte di queste parole. Comunque, questa è l'idea di una campagna civile contro l'evasione. Mi fate ridere! Questo era il mio commento. Ridere, non incazzare. Ridere, perché avete una rappresentazione deviata di che cos'è il fisco in questo paese. E soprattutto avete gli standard antropologici razzisti delle commercializzazioni. Del ciccione di merda evasore, come dite voi. Fate ridere. A tra poco. I conti della belva. Ed eccoci tornati quindi diretta allo studio di Milano di Radio 24, 11, 6 primi 47 secondi, compare di Conti da Belva, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè. Però Scaggionino, lo sapevo che avrei suscitato delle reazioni dure con le mie parole dure su quel corto di razzismo antropologico volto all'antievasione fiscale, e perché molti naturalmente insorgono dicendo che sono un complessato, che sono tutto quello che volete voi, però la mia opinione resta questa. Naturalmente non ho nessuna pretesa di rappresentare un punto di vista maggioritario. Per me una gravissima caduta di stile, incomprensibile. Però, detto questo, cambiamo argomento. Allora, noi adesso prima sentiamo due ascoltatori e poi ve lo dico subito, andiamo a parlare della risoluzione, si chiama così in gergo tecno, delle quattro banche avvenuta per decreto domenica scorsa. Stiamo parlando della Cassa Risparmio di Chieti, di Ferrara, di Banca Marche, che è insomma, la più rilevante come asset, e poi della Banca Etruria e Lazio. Decreto legge che, sorprendendo alcuni, non capisco sulla base di che cosa, ha colpito naturalmente gli azionisti e una parte degli obbligazionisti, ma era molto dura. C'è gente che si sveglia adesso e dice ah, e noi sentiremo anche loro. Però sentiamo queste due telefonate, poi iniziamo facendoci dire da Mario e Carlo Alberto che cosa pensano di questa vicenda, di come è maturata, del perché si è raccontato per anni che abbiamo un sistema bancario più elevato, del perché si è detto anche a quegli azionisti obbligazionisti ma state lì fino, ma non vi preoccupate, tranne poi l'ultima settimana bang, ecco come era ovvio da tanti punti di vista. E cosa succede in prospettiva per le altre 10 banche commissariate di Banca Italia? Tutte domande che inizieremo ad approfondire tra poco. Intanto sentiamo ancora l'opinione sul bono studenti di Enrico da Arezzo. Enrico, prego. Buongiorno, io mi chiedevo come mai lo Stato italiano non diminuisce la SIAE sugli spettacoli culturali, non diminuiva l'IVA sull'acquisto dei libri, dei CD, provvedimenti generali per la cultura, no? Invece Non faceva agevolazioni ai locali che fanno eventi culturali, almeno che non siano circoli ARCI o circoli AACS. E continua. No, è chiarissimo quello che dice. Enrico, una domanda: lei era azionista obbligazionista ad Arezzo della banca? No. No, ringraziando il cielo. No. Quindi almeno da quel conto perdite lei è escluso. Grazie dell'opinione. Sentiamo Mario da Imperia, sempre sul bono studenti. Buongiorno. Sì. Volevo dire questo, ma ha capito ancora questo, io lo chiamo ciarlatano, Renzi, quelli che gli stanno dietro al Ministero della Pubblica Istruzione, che cos'è la cultura? Ma la cultura non è andare al cinema, andare a visitare l'archeologia, andare a visitare i musei. Ecco, il sostegno all'industria culturale. Assolutamente! La cultura è leggere a scuola, non con le stupidaggini che gli fanno leggere, ma fargli leggere e studiare e meditare i classici. Allora, vedremo com'è il provvedimento, Mario, perché se è solo per i libri, magari a quel punto è meno peggio, se c'è tanto altro, magari invece no. Quindi per il momento è un annuncio, ripeto, siamo in arretrato di due decreti di spesa, quello da 1,2 miliardi di famoso decreto Happy Days, i soldi per Bagnoli, Terra dei Fuochi, per entrare nella Valle dell'Expo e tante altre cose, anche quello scoperto per più del 60%, e poi questi 2 miliardi aggiuntivi, dico ignoriamo copertura e ignoriamo soprattutto i testi, non c'è il testo nemmeno del primo. All'assemblea di Arexpo che giovedì doveva decidere l'ingresso dello Stato nell'area attualmente di proprietà di Comune, Regione e Fiera di Milano, ed era previsto l'ingresso perché altrimenti non si fa un passo avanti per l'utilizzo dell'area, il testo del decreto legge non c'era. Ecco, siamo in queste condizioni, chiudiamo questo capitolo del bonus, se volete continuare a telefonarci comunque telefonateci perché mandiamo in onda le telefonate, e iniziamo a farci dire da Carlo Alberto e da Mario Seminerio le loro reazioni domenica scorsa al decreto con cui si sono tra virgolette risolte le quattro banche che vi ho detto prima. Carlo Alberto. È caduto un mito in Italia, un mito che reggeva la legge bancaria degli anni 30 e che attribuiva allo Stato un potere di garanzia assoluta su qualsiasi cosa succedesse in banca. Gli italiani sono svegliati lunedì mattina con una nuova consapevolezza, e cioè che il rischio nello scegliere un istituto bancario era stato trasferito nelle loro mani. Questo è un passaggio fondamentale, al di là della cronaca, delle scelte tattiche, è un passaggio culturale importante che la Repubblica non ha ancora metabolizzato. Quindi, se vogliamo, c'è un dato storico: per la prima volta in Italia si scopre che le banche sono aziende come le altre, e che la scelta di una banca non è un atto fideistico di attribuzione del rischio alla Repubblica Italiana, ma è un atto consapevole, un atto responsabile. Questo è il dato fondamentale. Poi sono elementi tecnici. Siamo entrati in un'Europa dell'Unione Bancaria che ci ha imposto delle regole che non abbiamo digerito, non abbiamo spiegato, non sono state rese trasparenti. Siamo stati i primi a fare un'operazione di, chiamiamolo salvataggio, non lo è un risanamento parziale che mette per adesso, come dire, in frigorifero quattro nuove banche il cui destino è essere vendute, bisogna vedere chi le comprerà e con quali risultati, ma soprattutto oggi rende evidenti a tutti che gli azionisti, gli obbligazionisti per oggi subordinati, ma domani dal 1 gennaio, esatto, anche quelli senior, esatto, e anche, ricordiamo, i correntisti sopra i 100.000 euro, aggiungo le imprese, le medie imprese, i conti correnti corporate che il governo ha voluto mettere in prima fila a rischio, il 1 gennaio rischiano, se hanno soldi su banche che fanno tesoreria e che non rispettano i parametri della BCE, signori, le medie e grandi aziende oggi rischiano di essere scongelati, anzi sottratti i crediti che hanno in conto corrente per pagare fornitori e per pagare i loro dipendenti. Quindi è un momento importante che merita grande lucidità e grande trasparenza. Secondo me dobbiamo parlare meglio e con i numeri in mano. Sì, a parte che c'è stato, diciamo, i soliti noti che sguazzano facendo un po' di demagogia spicciola, questo è un evento veramente epocale, come ha detto Carlo Alberto, nulla sarà più come prima. Questo però, se permettete, è anche l'ennesimo nodo italiano che arriva al pettine dopo anni di trascuratezza, di negligenza, di trasantatezza, di speranze che qualche santo ci aiuterà, che arriverà lo stellone, eccetera, eccetera. Le reazioni contro i diktat europei sono state abbastanza classiche, stereotipate, no? C'è sempre qualcuno che ci vuole impedire, si vuole mettere di mezzo tra noi e la felicità. Non era così. Noi abbiamo banche che per troppo tempo, ribadisco questo concetto, per troppo tempo in Italia banchiere ha fatto rima con faccendiere, in alcuni casi, nella patologia, in altri casi ha fatto rima con improvvisazione, inadeguatezza, clientelismo, notabilato locale, eccetera. Poi è arrivata la crisi, quella che copre tutto, quella che durante la notte in cui tutti i gatti sono bigi, e si dice che è stata la crisi. Non è esattamente così. Allo stesso modo in cui dire ma anche i tedeschi, le Landesbanken eccetera eccetera, anche lì non è esattamente così, perché fino ad ora non è esploso nulla. Cioè, pensare che noi abbiamo avuto queste banche dissestate per un complotto esterno e non per assoluta insipienza della cosiddetta classe dirigente, degli oligarchi italiani, è un errore capitale. Quando gli italiani la pianteranno di pensare che c'è un complotto esterno contro di loro, probabilmente le probabilità del paese di salvarsi aumenteranno. Però sono assolutamente d'accordo, per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, con Carlo Alberto. Questa è una svolta epocale e nulla sarà più come prima, al di là, diciamo, della grande metodicità, maniacalità con cui adesso le varie vigilanze assortite stanno cercando di mettere i paletti, perché comunque la cattiva pratica, il malgoverno e la cattiva governance sembrano essere connaturate a questo paese. Io devo dire che ho scritto fin dal primo momento un articolo pubblicato su Leoni Blog, 6 motivi di grande durezza di critica rispetto al modo in cui si è arrivata a questa misura. Non è piaciuto per niente al regolatore, dicono che le mie sono tesi forsennate, rinvio alla lettura di quello, però io, cari ascoltatori, vi hanno raccontato fin dall'inizio della crisi che avevamo il sistema bancario più sano del mondo. Era vero? No. Fin dal 2011, quando scoppia l'eurocrisi, era evidente che ci saremmo avvitati, vista la bassa qualità del credito per motivi relazionali, quelli di cui parlava adesso Mario, e visto che siamo il paese più bancocentrico, non ci sono intermediari se non bancari nel nostro sistema, ci saremmo avvitati sull'esplosione del credito deteriorato, e che questo avrebbe rappresentato un elemento sistemico della crisi, perché dover mettere capitale aggiuntivo da parte per affrontare crediti deteriorati significava taglio inevitabile alle imprese e alle famiglie. E puntualmente è avvenuto. Siamo arrivati a una cifra spaventosa che nell'aggregazione più ampia arriva a 340 miliardi di euro di sofferenze e crediti deteriorati rispetto ai 200 che vi dicono di NPL nella cessione ristretta. Fa il 21% ristretta. Del PIL. Ecco, fa il 21% del PIL. Un euro su 5 del nostro PIL è deteriorato. E hanno continuato a dirvi fino a 5 giorni prima del decreto che gli azionisti, gli obbligazionisti, non c'era da preoccuparsi perché avrebbero usato il fondo interbancario, lo avrebbero usato con la garanzia pubblica. Noi tutti sappiamo che erano palle, perché l'intervento esperimento simile fatto alla Cassa di Teramo nel 2014, era stato bocciato dalla BCE. L'informazione è stata connivente con questo lineamento, lo voglio ripetere, di Banca Italia e di politica, che io non ho capito che fossero un grave atto di tradimento verso l'Italia. Una parola durissima, lo ammetto, però essere arrivati all'ultimo momento a dire va bene, allora prendiamo quello che c'è nella direttiva e lo facciamo nostro, dopo aver detto a tutti, agli operatori, a chi aveva i soldi in quelle banche lì, commissariate da tempo lunghissimo, che non si dovevano preoccupare, e invece dirgli no, sapete che c'è adesso, in 48 ore vi raccontiamo che tutto l'opposto di quello che vi dicevamo, invece vale la direttiva europea, la cambiamo perché salviamo un pezzo di obbligazionisti rispetto al 1 gennaio. E però la domanda è, benissimo, avete drenato le risorse di 4 anni di fondo di risoluzione per 4 banche che sono meno dell'1% del totale degli asset del credito italiano per i prossimi 4 anni, le altre banche, le altre 10 commissariate, che cosa facciamo, cara Banca Italia? Come ci inventiamo? Perché continuate a dire che il problema non c'è? A me sembra un problema macro evidente. Dite che io sono un forsennato? Può essere, certamente. Lo raccontiamo poi a... E comunque facciamo molta attenzione, perché il problema della bad bank di sistema resta assolutamente sul tavolo. Esatto. Perché la Commissione Europea ha già detto più volte di no. Il governo italiano continua a inventarsene di nuove. Esatto. Vediamo che cosa succederà a breve. Guardate, per gli interessati, che anche l'Economist è uscito giovedì, continua a dire, il governo italiano continua a dire che la CDP garantirà tutto. Fatevi torniamo tra un minuto a parlare anche di particolari tecnici, e soprattutto diamo voce a qualcuno che ci ha rimesso i soldi. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta della belva. Eccoci qui, tornati in diretta, 11:19, primi 23 secondi. Stiamo parlando qui con Padre dei Conti della Belva della, tra virgolette, risoluzione delle quattro banche, il primo blocchetto rispetto alle altre 10 commissariate di Banca Italia venuta domenica scorsa. E caro Alberto, caro Mario, cosa succede se noi applichiamo la stessa percentuale di abbattimento del valore dei non performing loans di queste banche, ripeto, meno dell'1% del totale degli asset del sistema del credito italiano, per il quale vengono già prosciugati 4 anni del fondo di risoluzione per la crisi di tutte l'altro, non so come la affronteremo, però caro Alberto e Mario, cosa succede se applichiamo al totale dei crediti deteriorati delle altre banche la stessa percentuale di abbattimento decisa a tavolino dal governo per queste quattro? Che comunque è un prezzo di mercato, ricordo, anche se è un mercato finto, è un benchmark, diciamo, più che un prezzo di mercato. No, diciamo quale è stata la percentuale. Esatto, il 17,6%. Sì. Vuol dire che su 100 euro che le banche avevano prestato e che non rientravano regolarmente, il sistema ha espresso il suo giudizio dicendo valgono 17,6, quindi 82,4 semplicemente dimentichiamoci, che costituiscono il grosso della perdita, che è stato in parte, in larghissima parte, accollato appunto agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati. Virgola, senza dimenticare una parte che è a carico nostro, fin dalla prima, dalla sera in cui il governo diceva non c'è nessun costo pubblico, c'era il documentino della commissione, diceva 400 milioni tanto per cominciare. 400 milioni di garanzia della CDP, che come sappiamo ha la giacchetta tirata ad ogni angolo ogni volta che c'è da garantire. Però, scusa, ma torniamo sul tema. Questo 82,4%, se applichiamo i 350 miliardi di crediti deteriorati in Italia, che ripeto sono più del 20% del PIL, fanno 280 e briscola miliardi di capitalizzazione tolta dalle banche italiane. Ora è chiaro che una situazione di questo genere qua, che ha un benchmark di mercato, fossi io in un consiglio di amministrazione in una banca, ok, che deve chiudere il bilancio al 31 di dicembre e dovessi dire signori, ma teniamo valorizzati questi asset a una cifra stabilita da noi o prendiamo un benchmark di mercato? Perché questo problema si pone, secondo me. A quel punto significa proprio il problema che poi devi ricapitalizzare, avere i soldi, gli azionisti non ce l'hanno. Ritorniamo nella solita questione. Però vuol dire italiano. Che non stai dando una informazione corretta, bravo, e trasparente agli azionisti. E quindi io mi aspetto che entro la fine dell'anno un pezzo di bad bank di sistema o specifica la debbano tirare fuori, e spero che lo facciano con trasparenza e con rigore. Purtroppo è una speranza che, come dire, non verrà rispettata. Non so cosa ne pensi, Mario. Due considerazioni spicciole. 17,5% di valore di questi crediti trasferiti alla Bad Bank nulla ci dice della composizione di questo portafoglio, esatto, crediti. Se sono unsecured, quindi non assistiti da alcuna garanzia, potrebbero avere un valore di recupero di 2, 3, 4, 5, vicino anche allo zero. Se sono assistiti da garanzia, penso per esempio gli immobili, il valore di recupero può essere considerevolmente, certo, più alto, per cui questo è un medione, diciamo, certo, bisogna vedere com'è. E diciamo anche che il grosso del trasferimento è stato di sofferenze e non di incagli, quindi, esatto, c'è anche una, sì, ponderazione, sì, sì, diversa. È auspicabile, quindi potremmo che gli incagli vengano comunque tenuti e lavorati per sopra. Per far capire, diciamo, a chi è a casa, che invece legge che è la cattiva Europa che ci impone questi metodi, quando l'Europa dice in realtà i crediti deteriorati vanno ceduti a prezzi e con metodi di mercato, parla appunto di questo, cioè di procedure che consentano di valutare i collaterali e le garanzie dei tipi di crediti, che crediti sono, chi è il prenditore e così via. Se si stabilisce a tavolino con un metodo politico di media tra regolatore e politica, perché l'hanno deciso a tavolino Banca Italia e il governo, cioè Banca Italia e AB, per essere chiari, che dovrebbero essere due cose distinte, invece sono molto collusive, allora ovviamente questo dubbio resta. Resta, però è un benchmark, però, dai, però, però è meglio che niente, però, è meglio che il prezzo sintetico. Dall'idea del problema di cui non si parla in Italia. Anche perché sul mercato invece la differenza fra denaro e lettera è 7% e 24%. Cioè, diciamo, cari ascoltatori, se applicate con la percentuale di abbattimento la lista delle banche che sono da chiudere in due ore, esatto, diventa... Quindi sono 280 miliardi... applicando questo 17,5, sì, oppure di 150 buco, se vogliamo applicarli solo alle sofferenze, se vogliamo, okay, applicare, benissimo, solo sono 150 miliardi di capitale bancario, sì, che va reintegrato, esatto, oppure, visto che il denaro non si crea e non si distrugge, certo, sono 150 miliardi di debito, di debito pubblico, pubblico in più o sopra la linea, come dicono gli anglosassoni, cioè direttamente nel bilancio dello Stato, esatto, o sotto la linea, cioè in capo a una entità che non è consolidata nel debito pubblico, che ha un nome e un cognome, che è Cassa Depositi, che è Cassa Depositi e Prestiti e Garanzie a piedi questo di sacco. Questo è il tema, quando questo spari Bad Bank, questo è il punto per sul quale gli italiani, cittadini e contribuenti devono essere consapevoli prima di cadere dal letto o dal seggiolone. Ecco, e purtroppo, siccome c'è gente che ci ha rimesso quattrini, io devo dire la verità, il tentativo di dire per tempo pensateci, però lo abbiamo fatto, ti ricordi, sì, che pochi giorni no, dopo la conversione del decreto abbiamo parlato in questa trasmissione, siete tutti tranquilli, va tutto bene, no, e no, io a dire la verità in alcuni posti come Arezzo ci hanno andato anche prima, quando facevano le assemblee della popolare, dicendo ma li guardate sti bilanci voi che continuate a comprare azioni e obbligazioni, oppure credete di andare verso, però tutti dicevano, poi dopo hanno detto ah beh però le critiche erano fondate, ho capito che volevo, li votavate voi tutti con la mano alzata all'assemblea. Quella è una banca popolare. Allora abbiamo con noi il presidente degli azionisti di banche Marche, di Banca Marche, Bruno Stronati. Grazie di essere con noi. Che devo dire, solidarietà naturalmente a lei e a chi rappresenta. Allora, come l'avete presa, per così dire? Non bene, ma ci dica che cosa pensate di fare innanzitutto. L'abbiamo presa non bene sicuramente. Quello che cerchiamo di fare è recuperare il denaro perso da parte di tutti gli azionisti e gli obbligazionisti di Banca Marche, appunto, che sono risparmiatori essenzialmente. Quindi cercheremo di in tutte le sedi civili e penali di andare a colpire coloro che hanno causato questo disastro. La cosa nasce non ora, la banca è commissariata da oltre 2 anni e mezzo, esatto, 2 anni e 2 mesi per l'esattezza. E in questi 2 anni e 2 mesi noi ci siamo attivati per inserirci eventualmente con un procedimento civile nei confronti degli ex vertici di Banca Marche, i 37 indagati dalla Procura della Repubblica di Ancona. Questo era fino a ieri il nostro intento, fino a domenica, quando la situazione è precipitata con l'azzeramento delle nostre azioni e con l'azzeramento anche delle obbligazioni subordinate. A questo punto lo scenario si amplifica, cambia, non andremo solo contro i 37 indagati, ma ci riserviamo di andare anche contro Banca Marche. Come dicevate poc'anzi, i crediti... le sofferenze, i crediti non esigibili o le sofferenze sono stati valutati al 17,6 1% del loro valore, questo sì, tutto in una notte. Sì. Gli 8 miliardi e mezzo di crediti in sofferenza, appena 1,2 miliardi è la valutazione. Questo mi sembra una... Quindi per voi che siete azionisti, no, fateci capire, perché magari invece questa percentuale di abbattimento andava fatta secondo altri criteri. Però io le faccio una domanda fuori dai denti. Lei ha creduto in questi anni di commissariamento? Fa bene a ripetere quanto è stato lungo, perché non si tratta di banche commissariate l'altro ieri dalla Banca d'Italia. No, ecco, la banca è stata commissariata 2 anni e 2 mesi. Esattamente. Allora, nel corso di questo periodo, soprattutto nel corso del 2015, quando è iniziato a essere pubblicato sui giornali l'evidenza, no? Settimana dopo settimana c'erano le proposte... È una presunta bad bank di sistema che Banca Italia e il governo portavano a Bruxelles, quando in realtà era evidente che Bruxelles ci avrebbe detto di no. Poi nacque questa idea del fondo interbancario e l'idea era sempre: non vi preoccupate, azionisti, obbligazioni, non vi preoccupate, noi vi sottraiamo dal bail-in dell'Europa cattiva. Ma voi ci credevate a queste cose, stronati? Noi ci abbiamo creduto, creduto solo in parte. La nostra associazione si è rivolta a tutti, si è rivolta dal presidente Renzi a Padoan e al Visco, che è la Banca d'Italia. Ci siamo rivolti ai commissari, abbiamo chiesto di essere ricevuti. E la risposta, posso dire, era ispirata a un sano criterio di onestà nel dire: guardate, ci pare molto difficile evitarvi di darvi la botta in testa secondo quello che dicono le norme europee, oppure vi dicevano: non vi preoccupate, ve lo eviteremo. Non vi preoccupate, stiamo lavorando anche per gli azionisti. Ecco. Questa era la risposta. E io, stronati, penso che voi questa roba la dobbiate ripetere, perché questa è una base fondamentale. Non voglio entrare nella valutazione del giudiziale delle azioni, ma questa roba è quella che è stata pubblicamente perpetrata per me. Effettivamente, però, se posso, stronati, è anche il caso di iniziare un'opera di educazione sia ai correntisti che agli obbligazionisti rimasti, perché perpetuare questa illusione. È vero che chi è stato al governo ha di fatto occultato il rischio, quando, scusate, la direttiva europea è chiarissima ed è stata disegnata almeno 2 anni fa, quindi bastava leggere, stronati, e ogni rassicurazione contraria si scontrava, scusate, con il dettato della legge, che invece era chiarissimo. Vogliamo invece iniziare un ciclo di educazione, perché è evidente che l'idea che il rischio non esista o che sia a carico dello Stato è un'idea che distorce il mercato del risparmio in questo paese. Sarà vero, però noi abbiamo acquistato le azioni, abbiamo fatto la ricapitalizzazione della banca su dei bilanci falsi, perché questo è stato appurato da Consob, che ha multato gli ex dirigenti. Lettere occultate da parte di Banca e infatti d'Italia. Questa è la base di un'azione nei confronti degli ex manager della banca. Il punto è che secondo me c'è anche una responsabilità di chi vi ha detto fino a pochissime ore o giorni, non più di giorni, prima del decreto di domenica: ma come? Perché stiamo parlando del regolatore, voglio ripeterlo per la terza volta, della Banca d'Italia. Io pronuncio questa parola purtroppo con un dolore vero, perché sono cresciuto e sono abituato a riconoscere il valore assoluto tecnico e istituzionale della Banca d'Italia in questo scassato paese. Certo. E meno male che c'è stata in tanti anni, in tanti ruoli, meno male che c'è stata. In queste vicende io non riconosco più le cose in cui ero convinto e che credevo. Sentiamo come la pensa Attilio, dalla provincia di Lecco. Attilio, prego. Sì, di Lucca. Di Lucca, perdoni. Allora, senti, io sono in quiescenza dal primo di ottobre, fortunatamente, facevo parte del gruppo Montepaschi. Sì. E quindi, diciamo, ho vissuto anche in prima persona certe... E vicende. Mi riallaccio a quello che stava dicendo lei, che la Banca d'Italia non si può dichiarare immune e tirarsi fuori da tutto quello che è successo, perché sono cose che non sono accadute con una velocità spasmodica. Quindi prendiamo ad esempio la nomina di presidente dell'ABI, colui che era presidente del Montepaschi, rinnovata la nomina anche in tempistiche in cui già problematiche venivano fuori. Ci sono delle cose che non vanno, e auguro al signore che parlava precedentemente di tutto cuore che le azioni che stanno intraprendendo abbiano qualche effetto, abbiano qualche risultato, ma sinceramente ho dei grossi dubbi, visto quello che sta succedendo anche in casa a Montepaschi. Sì, a dire la verità, la cosa che più, cioè, più che la conferma del presidente Labi, il problema è il dettaglio di che cosa le diverse pressioni di vigilanza appurò rispetto a quello che non veniva dichiarato in Banca d'Italia da Alexandria in poi. Questo ci vorrebbero dei libri per ricostruirlo. Ognuno ha le sue opinioni, ognuno ha le sue fonti, cose che io ho seguito bene, su quale ho davvero anch'io su quello la mia opinione. Pierluigi dalla provincia di Lecco, come la pensa? E allora la considerazione è: la Banca d'Italia ai tempi del fallimento del Banco Ambrosiano ha invitato 6 banche a intervenire per salvarla. Poi c'era Libi che stava fallendo, Mondo Cattolico, Finanza Cattolica, ha invitato la Carico a comprare Libi, non l'ha comprata volentieri la Carico Libi. Sì. Adesso la Banca d'Italia invita qualche istituto di credito, le 3 banche, UBI, Intesa San Paolo, Unicredit, poi altre, ProQuota, è ora di finirla che la Banca d'Italia inviti. Se la banca è un organismo autonomo, interviene se lo ritiene opportuno e conveniente. Gli inviti della Banca d'Italia sono fatti perché? Perché esistono una cerchia di banchieri che sono sempre gli stessi, che oggi sono in una banca, domani il Nicastro per esempio, ex Unicredit, oggi è uno dei responsabili di questo nuovo fondo che hanno istituito, sono sempre quelli che girano, quindi sono persone senza bandiera che sono al servizio di non essere. Allora Pierluigi, lei dice c'è troppa discrezionalità e opacità in questo di una Banca d'Italia che a questo punto diventa vigilanza ma anche risoluzione dei sistemi. Questo è un bel problema, perché il meccanismo che non ha separato rigorosamente, non solo con i Chinese Walls ma con vere e proprie barriere culturali e personali, chi fa vigilanza, che quindi è responsabile del fatto che magari non l'ha fatta bene, e chi deve intervenire e fare risoluzione, è su questo francamente io chiedo un po' di scrutinio, un po' di trasparenza. Gli italiani hanno diritto di sapere chi decide, quando lo decide, con che tempi e con che trasparenza. Consob ha messo un comunicato durissimo su questo. Io vi invito a riflettere che il famoso meccanismo di invito per UBI partecipare a quelle che mettono i soldi per prime, visto che l'operazione viene in fretta e furia perché dopo aver detto di no bisogna adottare uno schema non perseguito, quindi in realtà prima che vengano versate tutte le banche dal sistema bancario versano ognuno la propria quota del fondo di risoluzione, c'è chi anticipa. Per UBI la quota di anticipazione sul totale dei 3,6 miliardi vale quasi l'80% degli utili dei primi 3 trimestri, quindi che questa roba, se io fossi azionista di UBI direi: ma che cazzo mi avete chiesto? Cioè qua già è una banca di cui si parla nelle prossime strategie di fusione, di regole eccetera eccetera, dobbiamo mettere capitale da parte e tutti gli utili li devolviamo perché banche scassate invece di farle fallire salviamo. Perdonate, ma che logica è questa? Mi metto nei panni degli azionisti di UBI, perché non è che ci sono solo gli azionisti delle banche rasate e colpite, ci sono anche gli altri che a questo punto si devono preoccupare. Certamente, Intesa, Unicredit e UBI stanno sopportando i loro azionisti, i loro obbligazionisti subordinati, certo. Sono stati trattati molto peggio degli azionisti, degli obbligazionisti senior delle banche risanate. Ricordo che è stata una discrezionalità del regolatore nell'attribuire costi impliciti agli uni e agli altri. Va bene, come vedete abbiamo una posizione molto forte, molto critica. Non le leggete queste cose sui giornali, mi dispiace, senza eccezioni, senza eccezioni, perché l'opinione dei grandi direttori è che bisogna essere su questi temi contenuti, misurati, non usare parole critiche, perché non bisogna incutere timori della paura di correre agli sportelli. Io penso che bisogna dire ai risparmiatori: tenete gli occhi aperti perché altrimenti vi fottono. Bisogna parlare apertamente degli troppi oneri di sistema nel risparmio, di troppe cose che non funzionano, però io non sono dell'idea che bisogna essere muti con collusioni che poi alla fine producono danni, e soprattutto stiamo parlando di cifre che sono imponenti e che saranno un freno permanente, se non risolto bene, per la crescita del paese. Chiudiamola qui adesso e poi torniamo con Rita Faticuso dalla Cina. State ascoltando un programma offerto da Creo Kitchens, finalmente la cucina di qualità ora alla portata di tutti. Gruppo Lube. Fratelli d'Italia, l'Italia le vesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, il nostro è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta 11.41, primi 15 secondi, compare dei conti da Belva. Mario. Carlo Alberto. Oscar, vi abbiamo un pochino, per così dire, spazzolato con più o meno la spazzola, quella che si usava per le vecchie candele, un po' duramente su questo tema delle banche. L'avrete capito, abbiamo opinioni forti, un po' minoritari. Crediamo che siano nel vostro interesse, come risparmiatori, come italiani, e lasciamo perdere se poi avete soldi direttamente nelle azioni, obbligazioni del sistema bancario. Però noi pensiamo che questo è il modo in cui bisogna trattare questi argomenti, con onestà e andando dritti al cuore di problemi giganteschi. Adesso vediamo come i problemi giganteschi invece li affrontano quelli che hanno problemi più giganteschi dei nostri, hanno una grande responsabilità nel mondo, e nel mentre esplode le divisioni tra Occidente, all'interno dell'Occidente, tra la Turchia e la Russia, su ISIS eccetera eccetera, i cinesi vanno sulla loro strada. Ve lo ricordo, i cinesi sono sulla strada di questo nuovo piano quinquennale, che è quello che ricorda la nostra sigletta. Have you guys heard what's going on in China? President Xi Jinping's new style? Yes, and there's more. Ecco, è fantastico queste voci flautate che sembrano californiane, che stanno parlando del presidente Jinping e del suo piano quinquennale. Come sempre, oramai è diventato un'abitudine, abbiamo Rita Fatiguso collegata da Pechino. Buongiorno per te, buon pomeriggio avanzato, Rita. Ciao Oscar, ciao anche ai tuoi ospiti. Allora, noi ci abbiamo in questi giorni, in giornali italiani, sono 24 ore, che dice che c'è un problema serio per la Cina. Questa volta non stiamo più parlando dell'accesso alle paniere delle riserve, delle valute di riserva dal fondo monetario, cioè al pieno accoglimento della richiesta cinese. Ne abbiamo già parlato, di avere un riconosciuto questo status che serve molto alla Cina, ma serve anche molto all'America, bensì stiamo parlando del fatto della condizione di nazione alla quale riconosce lo status di pieno mercato nel WTO. C'è un problema anche al governo italiano, pare. Ma tu questa faccenda come la vedi, prima di arrivare al punto che ci vuoi raccontare? Bah, io questa faccenda, vedendola dal punto di vista di Pechino, devo vederla molto banalmente come un non problema, perché come sapete, dopo l'ingresso nella WTO, la Cina crede che questo stato gli debba essere riconosciuto, sì. Quindi nulla questio, cioè qual è il problema? Vedi un problema? Abbiamo all'interno del governo italiano il vice ministro Carlo Calenda, che è quello che ha tutti i dossier in mano del trattato transatlantico, esatto, eccetera eccetera, sì. Su questo dice se noi gli diamo questo status poi non possiamo più dire niente sui dazi, le cose eccetera eccetera. Però credo che tu azzecchi. Io questa posizione la conosco da tanto tempo, anche perché conosco anche le posizioni di Carlo Calenda e ne abbiamo discusso diverse volte anche insieme in maniera così abbastanza, ecco, tu mi hai chiesto cosa ne pensi, io non posso dire cosa ne penso, posso dirti che essendo qui la corrispondente del Sole 24 Ore dalla Cina, devo anche dirti che sostanzialmente in teoria non ci dovrebbero essere nemmeno dei negoziatori, esatto, cinesi, cioè non ci dovrebbero essere questo, più delle obiezioni, perché su questo non c'è un problema, esatto. Cioè la Cina ritiene che questa cosa gli sia dovuta dopo tanti anni di ingresso, la considera un automatismo. Sono passati 15 ormai, esattamente, ecco. No, dopodiché posso dire un'altra cosa invece, e cioè che ci sono altre cose sulla quale la Cina non ha ottemperato. Una di queste, vabbè, largamente nota, è tutta la tematica un po' che riguarda in senso lato il rispetto diritto del lavoro, diritti sindacali. Ecco, questa è una cosa sulla quale ha fatto delle robe, ma forse non abbastanza come gli veniva richiesto. Ma il public procurement, che è una cosa importantissima, sembra una parolaccia, ma in realtà è importante. È una parolaccia in Italia, perché il public procurement in Italia, anche in Italia, è una tutto tranne che come la Cina, che addirittura ha creato una sua banca dello sviluppo, come sapete, che dovrebbe diventare operativa dal 1 gennaio, e alla quale ha chiamato a partecipare ormai quasi 60 nazioni del mondo, e che mette in palio, in senso lato, tutta una serie anche di immagino appalti, perché già l'obiettivo è creare opere infrastrutturali con l'aiuto di queste aziende, di questi paesi. Una langa manus per la proiezione geostrategica dell'influenza cinese nel mondo attraverso le infrastrutture. Il problema qual è? Che se non esiste un'adesione ai criteri del WTO su questo fronte, vuol dire che quando ci sono queste occasioni le aziende straniere non sono in grado di competere, di partecipare ai bandi allo stesso livello e con le stesse regole di quelle cinesi. Questo è un problema veramente serio e non si riesce a, ad arrivare ad una conclusione, a, un, a una condivisione di una sorta di, diciamo, di comune cammino. E questo è molto importante per la Cina, per poter come dire, anche considerarsi un paese veramente globalizzato, perché è chiaro che se si chiudono le porte anche ad aziende straniere per appalti ai quali invece altrove i cinesi invece concorrono nel mondo, non è che le cose siano messe bene. Pensa Rita bene, che no? Noi il governo ha appena sbaragliato il consiglio di amministrazione che aveva nominato lui alla testa delle Ferrovie dello Stato, e ha appena nominato amministratore delegato Mazzoncini, con il grande merito in Bus Italia di Ferrovie dello Stato, e quello di aver risolto la grana dell'acquisizione portandola appunto in Ferrovie dello Stato dell'azienda dei trasporti di Firenze quando c'era Renzi sindaco, e la gara fu vinta facendo sparire la busta del concorrente alla gara, che arrivò poi troppo tardi. Quindi, per dirti, questa è l'Italia che dà i voti agli altri sul public procurement. Allora Rita, intanto andiamo in pubblicità, ti saluto e ti ringrazio. Figurati, ci sentiamo la prossima settimana. Okay. A tutti, ciao. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qua, tornati in diretta per questi ultimi minuti dei conti della belva. In effetti le ultime notizie sono molto ottimiste che vengono dall'Italia. Per esempio, in arrivo per la prima della Scala a Milano nel dopo Expo, i vigili scioperano a Milano. Ecco, questo è il titolo che c'è oggi nella cronaca dei giornali di Milano: c'è la prima e i vigili scioperano. Oppure da Roma, in previsione delle nuove misure di potenziamento rapido per il giubileo affidate al commissario Tronca, da 4 giorni il 25% di tutte le periferie di Roma è privo dei servizi di trasporto urbani. Ecco, però l'Italia è meravigliosa, noi ci crediamo, è vero Mario? Sì, assolutamente. Ecco, leggi questa roba che ci ha mandato l'ascoltatore. C'è questo ascoltatore incazzato come una bestia che scrive: dopo la zanzara, la bestia, il secondo programma di Radio 24, voi parlate male di tutto, paese, politica, banche, governo, siete per il tanto peggio, tanto meglio, siete dei terroristi come l'ISIS, loro ammazzano, voi invece inculcate nella mente delle persone che non vi sia rimedio allo schifo di questo paese. Cari vecchi tromboni e cariatidi, andate a casa insieme al vostro direttore colpevole quanto voi, in particolare per il turpiloquio della zanzara, trasmissione da bordello. E questo signore alla fine ha liberato un paio di emboli nella stratosfera e ora può serenamente andare a pranzo. Ma del noi, sabato noi ringraziamo, buon appetito, perché vogliamo esattamente suscitare. Ci piace inculcare nella mente. Ma no, ma però vedi, però è perché questo è un paese dove tutti inculcano qualcosa. È un paese di inculcati questo qui. Allora, noi siamo felici perché otteniamo l'effetto, forse perché parliamo di cose in termini un po' diversi dagli altri, però vedi, noi inculchiamo, questo il verbo diventerà questo, la trasmissione che ti inculca. Esatto. Allora. Diciamolo a Giuseppe Cruciani, così alla fine siamo veramente nella sua scia, ognuno con le proprie peculiarità. Dica. Peculiarità, però voglio sperare che non fosse l'unico SMS arrivato oggi, ma questo sicuramente la denuncia di lettura. Grazie. A questo signore che ci accomuna al turpiloquio. Detto questo, Renato Cifarelli ci ha raggiunto per telefono. Buongiorno. Sei un inculcatore anche tu, caro. No, mi becco del vecchio trombone nel frattempo, scusa. No, vabbè, ma io non la metto mai su questa storia, perché lì il vecchio è, come dire, superato, no? Non vuol dire l'età anagrafica, noi siamo tromboni. No, ma vecchio trombone. Perché ci questo. Inventiamo noi che c'è lo sciopero, la Scala, che è Roma, eccetera, che hanno messo a capo delle Ferrovie dello Stato uno che ha vinto la gara perché la busta degli altri non è arrivata. E ce le inventiamo. Ma noi. Soprattutto lo schifo di questo paese pare reversibile, perché una persona che scrive non c'è rimedio allo dateci schifo di questo ricetta, paese. Dateci la ricetta, santo Dio. Allora Renato, che esempio da inculcatore dell'inevitabilità dei niente, rimedi non oggi ci sono, no. Proporci oggi. Il mio errore è stato non parlarvi prima di cosa volevo parlare. Perché... No, sorpresa. No, perché mi fate inseguire la cosa, perché volevo parlare di quel bellissimo filmiettino sul porno dell'Agenzia delle Entrate, e ne avete già parlato, per fortuna vi ho ascoltato. Ma perché a te è piaciuto, quindi questo è il punto. Poi volevo parlare a te è piaciuta la commercialista, io lo so che ti è piaciuta. No, mi sono rifiutato, ti dico la verità Oscar, mi sono rifiutato di guardarlo, perché secondo me è una cosa rivoltante già lo so. Io invece ero incredulo, ma l'ho riguardato più volte, sì. Tu di come ne avevi scritto, e quindi vorrei evitare, viste le, esatto. Il mio non ti esporre 7:30, esatto, non ti esporre e quanti soldi verso allo Stato di poi dovermi anche arrabbiare non ti esporre. Per questa cosa qua. E quindi con cosa lo sostituisci? Senti, non si può fare questa settimana, io lo dedico all'Europa che non c'è. Mm-mm. Perché, come diceva Vita prima, adesso siamo ad un altro punto topico per l'industria europea, che è quello del WTO e Cina, sì, sì, sì. Che 15 anni fa, come al solito in Italia, ci eravamo arrivati impreparati fortemente e molte persone ci hanno lasciato sul campo il posto di lavoro, perché poi è di questo che parliamo, come? Perché si parla sempre dei massimi sistemi, ma poi quando tu leggi, come c'è oggi su Sole 24 Ore, che l'apertura alla Cina del WTO e l'entrata della Cina a pieno titolo nel WTO come paese con economia di mercato può voler dire in Italia da 200 a 400 mila posti di lavoro persi, capisci che la cosa diventa non del tutto laterale no. In quella che è la nostra politica industriale. Soprattutto anche queste scelte che si fanno fuori da ogni dibattito pubblico. È la morte di Ilva, cioè, che è la vittima sacrificale. Fai un esempio concreto ed è esattamente giusto. Sì. Allora, poi cosa succede? Succede che questa Europa, per noi imprenditori, sta diventando quella che mette le regole, perché noi ci ritroviamo sempre con nuove regole che sono assolutamente giuste, perché se vogliamo migliorare la società sono assolutamente giuste, ma quando noi cominciamo a trovarci le regole sull'inquinamento, sulla sicurezza e tutte queste cose qua, e sappiamo benissimo, guardando i prodotti, che la competizione con la Cina è unfair in questo caso, perché loro tutte queste regole non ce le hanno, diventa molto difficile competere. È vero che ci dicono dovete fare più investimenti, dovete fare più ricerca, però... dovete fare tutte queste cose qua. Però sai, è un po' come correre con uno zaino da 40 kg sulle spalle, quando gli altri invece che corre senza nessuna allora io ti ringrazio Renato, perché con questa parte di ragionamento equilibriamo quello che ci diceva Rita da Pechino. Rita da Pechino dice per la Cina è un'obiezione che non esiste, e quindi dice io glielo faccio presente anche al viceministro Calenda quando viene qua, la posizione italiana dietro c'ha esattamente le cose di cui stai parlando tu oggi, è un tema che sui giornali tranne il Sole gli altri come se non ci fosse, ma invece pensate solo che l'ascoltatore a quante volte Tremonti negli anni l'ha fatta questa storia, no? Però adesso siamo in presenza di un altro sviluppo, c'è un dibattito aperto pubblico in Italia su questi temi paragonato e proporzionato all'attenzione dei numeri che ha appena fatto Renato Cifarelli? Rispondete voi se pensate che noi siamo matti che si inventano i temi perché siamo critici su tutto. Non c'è questo dibattito, colpa solo della politica? No, è un problema di tutte le classi dirigenti italiane, però è attraverso questi sviluppi che il mondo globalizzato va avanti. Un paese che vive di export e di manifattura, se questi temi non li affronta in dibattiti pubblici, ragazzi, e ci rimettiamo a fare i filmetti sugli evasori e i 518 anni, auguri a questo paese. Grazie come sempre compagni di Conti da Belva, grazie a voi che se ne ascolto, buona domenica e buon cari 18 tenni, pensate a come fare con i 500 euro, pensate quanti film, pensate che cosa nella vita.